Anche a Bologna ha fatto tappa la carovana Marocco a tutto gas, ne parliamo con Consuelo. Ciao Consuelo. Ciao a tutti, sì, siamo arrivati qui a Bologna, ma la carovana è già iniziata dal 7 febbraio. Siamo arrivati a Roma, abbiamo incontrato diverse realtà sociali di Roma, oltre anche a un liceo scientifico di Roma con cui faremo un viaggio in Marocco prossimamente con la scuola. E dopo di Roma siamo andati nelle Marche, sia a Senigallia che a Fano, per poi fare un'altra piccola tappa qui a Bologna per incontrare anche l'assessore. E poi abbiamo proseguito, abbiamo fatto Padova con Viaggi Miraggi ed un centro yoga per proseguire poi in Garfagnana, Parma e siamo adesso qui a Bologna. Da chi è composta questa carovana? Appunto, prima di chiederti anche quali sono gli obiettivi, ti chiedo chi la compone. Siamo in cinque, principalmente i protagonisti sono Ismail e Ajar che vengono direttamente dal Marocco e rappresentano una rete di cooperative e associazioni di cui anch'io faccio parte, ma ecco siamo un po' insieme e c'è anche Mohamed Rafia che è il presidente dell'associazione Sopra i Ponti di Bologna, ma anche membro di questa cooperativa che abbiamo fondato l'anno scorso tutti insieme, diciamo noi che formiamo questa carovana, e anche Tofik, un altro sia socio di Sopra i Ponti ma anche della cooperativa nascente che si chiama Asdikabi La Hudud, Amici Senza Frontiere. Qual è allora lo scopo di questa carovana? Lo scopo, un po' lo dice anche il nome, Marocco a tutto gas, perché gas sta a significare gruppi di acquisto solidale, perché la nostra rete di cooperative e associazioni fanno veramente delle bellissime cose, sia prodotti cosmetici, artigianali, alimentari, e nei viaggi che si fanno di turismo responsabile si possono incontrare in Marocco queste realtà, ma vorremmo anche portarle qui in Italia attraverso i gruppi di acquisto solidale, quindi anche poter vendere questi prodotti in questi circuiti virtuosi. Quindi la creazione di un circuito di scambio anche con l'Italia. Sì, esatto, sia quindi coinvolgere sempre di più i GAS, sia nel proporre questi prodotti, ma anche cercare insieme se è possibile magari anche fare dei gruppi di acquisto solidale in Marocco e anche fare viaggi per andare a conoscere queste realtà giù in Marocco direttamente. Quindi insomma una dimensione sia dei prodotti sia del turismo responsabile. Ti chiedo a proposito dei prodotti, perché avete pensato ai gruppi di acquisto solidali? Perché questa forma di distribuzione? Ma sono persone molto sensibili, anch'io faccio parte di un gruppo di acquisto solidale e conosco anche la dinamica, no? Di comunque cercare di sostenere queste piccole cooperative, alcune per esempio ancora non hanno la possibilità di una certificazione e quindi con il gruppo di acquisto solidale si riesce a magari ad andare incontro affinché magari queste cooperative possano poi raggiungere anche un'entrata economica per poter avere la certificazione, perché sono tutti prodotti naturali e biologici, solo che manca quel famoso timbro che gli dà anche questa opportunità in più, ecco. Ma i territori in cui lavorano queste cooperative che producono, appunto, che territori sono? Sono di più disparati, sono in tutto il Marocco, quindi sia nord, centro, sud, principalmente a sud perché è un po' più un territorio un po' più sfavorito, diciamo, rispetto agli altri, e quindi ecco, diciamo tutta la parte desertica, anche a sud di Marrakech, fino anche a sud di Agadir, fino alla zona del Medio Atlante, Alto Atlante. E anche la parte del nord, intorno, diciamo, alla zona di campagna di Casablanca fino anche a nord di Fes. Questo progetto, diciamo, nasce anche grazie alla collaborazione dell'associazione Sopra i Ponti. Sì, più che collaborazione è un po' il motore, perché è tutta un'azione che è nata dalla migrazione e sviluppo dell'associazione Sopra i Ponti, con i soci che la maggior parte sono tutti migranti marocchini che si trovano a Bologna e provincia. E quindi grazie al loro attivismo, che hanno coinvolto sempre di più altri marocchini che sono rimasti nei villaggi di origine per poter sviluppare progetti di questo tipo. E insieme in rete abbiamo, insieme anche alla cooperativa Viaggi Miraggi e l'associazione Mani di Parma e anche Donne di qua e di là di Parma, si è costituita questa rete ed ha anche dato questo frutto sia del progetto che stiamo portando avanti, che si chiama Doppia Presenza, Migranti Protagonisti con il Turismo Responsabile, e sia questa cooperativa che che è nata l'anno scorso a febbraio, proprio per incentivare sia il turismo responsabile sia la commercializzazione dei prodotti di queste cooperative. Magari gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko lo sanno già, però forse vale la pena ricordare cosa significa turismo responsabile. Turismo responsabile è ovviamente una forma di turismo, ma responsabile nel senso sia da parte del viaggiatore, sia da parte dell'organizzatore di viaggi e dalla parte della comunità che ospita. È responsabile perché siamo tutte le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze e quindi qualsiasi cosa facciamo dobbiamo anche pensare a qual è l'impatto più positivo per poter avere comunque delle condizioni migliori sia per chi ospita sia anche per vivere una bella esperienza per il viaggiatore che ritorna a casa sempre molto più ricco di quando è partito, che fa sempre molte esperienze di scambio culturale, di incontro con le persone, di ovviamente anche tutti quegli aspetti più turistici dei paesaggi, dei monumenti, ma con questo valore aggiunto dell'incontro con la popolazione, quindi con queste cooperative, associazioni che vengono anche sostenute grazie a questa attività turistica. Quindi a volte si dorme in famiglia piuttosto che mangiare nelle cooperative e quindi avere anche delle persone del luogo che ci possono portare a conoscere il loro territorio. Quindi insomma non un utilizzo, diciamo così, di un territorio che si va a visitare, non uno sfruttamento, non magari un soggiorno in villaggi turistici, ma una conoscenza anche attraverso appunto incontri. Sì, è la cosa principale l'incontro in questi viaggi e anche grazie a una figura che è molto importante che è il mediatore culturale che serve proprio da ponte per unire le due culture che sono anche molto diverse, quindi c'è proprio un bisogno di una figura di riferimento che possa far incontrare queste due culture, questi popoli. Consuelo, un'ultima domanda sui prodotti appunto che promuovete insieme a questa carovana e a questo gruppo anche di cooperative. Sono produzioni comunque tipiche locali? Sì, sono tutte produzioni tipiche locali, come ad esempio l'argan che come sapete si trova solamente in Marocco come un albero che cresce spontaneamente ed è anche preservato a livello proprio mondiale come anche patrimonio dell'umanità. E quindi ecco, l'argan è uno dei principali prodotti della rete di cooperative. C'è anche l'olio, per esempio, dei semi di cactus o fichi d'India, che è anche molto più ricco di proprietà oltre all'argan, ma ecco, è anche molto più raro perché ci vogliono tantissimi semi per formare una boccettina piccola di olio. Ci sono anche molte le acque distillate, sia di varie erbe aromatiche, anche l'olio essenziale di rosa, che viene prodotto soprattutto nella Valle delle Rose, Kalatmaguna. Anche il couscous, che è l'elemento principale anche di alimentazione della popolazione locale. Ci sono tante cooperative che lo producono, ma in particolare ci sono anche un'associazione, una cooperativa a Brashwa, vicino Rabat, che ha inventato anche il couscous con la farina di lenticchie, che è ottimo soprattutto per chi è celiaco che non può mangiare altre farine di cereali. Quindi ecco, diverse tipologie di prodotti, mi viene in mente adesso anche per esempio tutti i prodotti di artigianato come i vari foulard anche con l'agave e anche misto con cotone. I tagine, che sono un piatto di terracotta che viene utilizzato per tanti cibi in Marocco, ad esempio c'è anche l'henné, le varie spezie, il cumino, zenzero, la curcuma, cannella, pepe nero, eccetera. Ti faccio un'ultima domanda, diciamo se vuoi un po' più politica generale, visto che in Italia purtroppo il tema dell'immigrazione viene vissuto in modo così repressivo, spesso si usa l'espressione aiutiamoli a casa loro perché siamo, come dire, abbiamo purtroppo al governo anche dei razzisti. Questo è un buon modo per aiutare lo sviluppo delle comunità locali. Sì, è un modo che è naturale, diciamo, fa parte, penso, della natura umana, quello di poter avere l'opportunità di vivere in modo dignitoso nella terra in cui uno nasce. Per cui anche, per esempio, i migranti che si trovano qui a Bologna avrebbero anche il desiderio di poter trovare un buon lavoro nel proprio paese, non è, tutti vorrebbero poter restare a contatto con i propri amici, i familiari in cui è cresciuto e dove è nato, e noi riusciamo con tutto questo lavoro di rete ad incentivare questa possibilità, questa opportunità, ecco, grazie alla rete che questo potrebbe essere possibile. Chi volesse, che magari all'ascolto è interessato appunto dal racconto che stiamo facendo, come può mettersi in contatto con voi? In questo progetto Doppia Presenza abbiamo realizzato anche un nuovo sito internet ed un catalogo sia delle proposte viaggio che di prodotti in 4 lingue, e potete quindi trovare tutto sul sito marocnatureculture.org.